Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Lucy si accorse che Cecil non stava poi comportandosi tanto male e la sua irritazione si accrebbe. Desiderò nuovamente di impegnarsi in una lotta, non in una discussione. Per provocare la crisi disse: «Capitano dei giorni in cui abbiamo le idee chiare, dei giorni come questo. Da un momento all'altro le cose devono precipitare ed è successo per l'appunto oggi. Se proprio vuoi saperlo, è stato un non nulla che mi ha spinta a parlarti. Quando ti sei rifiutato di giocare a tennis con Freddy?» «Non gioco mai a tennis, io», protestò Cecil penosamente confuso. «Non ho mai saputo giocare. Non capisco una parola di quello che dici. Sai giocare abbastanza bene per fare il quarto nel doppio. Mi sono detta che eri di un egoismo mostruoso. Non so giocare, insomma, lasciamo perdere il tennis. Perché non potevi avvertirmi se avevi la sensazione che qualcosa non andasse liscio? A tavola hai parlato delle nostre nozze, o perlomeno non hai impedito che ne parlassi io». «Sapevo che non avresti capito», disse astiosamente Lucy. «Dovevo aspettarmelo che ci sarebbero state queste odiose spiegazioni. Naturalmente il tennis non c'entra. È solo l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso di tutti i sentimenti che covavo da settimane. Era meglio senz'altro che li tacessi fin quando non ne fossi stata ben certa». E volle ampliare il proprio punto di vista. «Già molte volte mi sono chiesta se ero adatta a essere tua moglie, a Londra, per esempio. E tu sei adatto a essere mio marito?» «Credo di no. Non ti piace Freddy. Non ti piace mia madre». «Si sarebbero potute fare parecchie obiezioni su questo fidanzamento, Cecil, ma tutti i nostri parenti ne sembravano soddisfatti, e poi ci incontravamo così spesso e non c'era senso a specificarle finché non fosse venuto il momento di tirare le somme. Oggi è venuto. Ci ho visto chiaro. Dovevo parlare. Ecco tutto». «Non posso convincermi che tu abbia ragione», rispose Cecil in tono mite. «Non saprei dire perché, ma sento che non mi stai trattando imparzialmente. È orribile, troppo orribile. A che servirebbe una scenata? A nulla, ma non c'è dubbio che io abbia il diritto di saperne un tantino di più». Cecil posò il bicchiere e aprì la finestra. Dal punto dove stava inginocchiata, agitando il suo mazzo di chiavi che si urtavano con un ingrato cigolio, Lucy poté scorgere un lembo di buio e, intenta a scrutarlo come se dovesse comunicargli quel tantino di più, la lunga, pensosa faccia di lui. «Non aprire la finestra, e sarà meglio che tiri anche la tenda, fuori potrebbe esserci Freddy o qualcun altro». Cecil ubbidì. «Credo proprio che sarebbe meglio andare a letto, se non ti dispiace, altrimenti mi sfuggiranno delle parole che rimpiangerei in seguito. Come tu dici, è troppo orribile, e discuterne lascia il tempo che trova». Ma a Cecil, ora che stava per perderla, Lucy appariva sempre più desiderabile. Per la prima volta, da quando si erano fidanzati, il suo sguardo si fermò su di lei invece di spingersi oltre. Da un Leonardo si era trasformata in una donna viva, con forze e misteri tutti suoi, con delle qualità che eludevano persino l'arte. Il cervello di Cecil si riebbe dallo shock e, in un impeto di dedizione genuina, egli gridò: «Ma io ti amo, ed ero sicuro che tu mi amassi». «Non ti amavo», disse Lucy. «Da principio credevo di amarti. Mi scuso, avrei dovuto risponderti di no, anche l'ultima volta». Cecil si mise a camminare avanti e indietro e Lucy diventò sempre più insofferente del suo comportamento dignitoso. Aveva contato sul fatto che sarebbe stato meschino, facilitandole così la situazione. Ma grazie a una crudele ironia, lei stava invece attingendo a tutto quanto c'era di più pregevole nel suo carattere. «Non mi ami? È evidente. E ritengo che tu abbia ragione a non amarmi, ma mi farebbe un po' meno male se ne sapessi il perché». «Perché?» Una frase le si affacciò alla mente e l'accettò. «Perché sei uno di quegli individui che non possono conoscere intimamente nessuno». Negli occhi di Cecil balenò uno sguardo di orrore. «Tu persisti a interrogarmi», proseguì Lucy, «malgrado io ti preghi di astenertene e bisogna pure che dica qualcosa». «Sì, è questo più o meno. Quando eravamo semplici conoscenti, non ti importava che io fossi me stessa. Ma adesso mi proteggi di continuo». La voce di Lucy risuonò più forte. «Non voglio che mi si protegga. Voglio decidere per conto mio che cosa è giusto e che cosa si addice a una signora. Farmi scudo è un insulto. Non merito che mi si consideri in grado di fronteggiare la realtà, ma dovrei solo prenderne coscienza di seconda mano, tramite tuo? il posto che spetta a una donna. Tu disprezzi mia madre, lo so, perché è convenzionale e si preoccupa per la riuscita di una torta, ma santo cielo! Lucy si alzò in piedi. Convenzionale, Cecil! Sei tu, giacché può darsi che tu capisca le cose belle, ma sei incapace di usarne, e ti sprofondi nell'arte, nei libri e nella musica, e vorresti cercare di sprofondarci anche me. Io non sono disposta a lasciarmi soffocare, nemmeno dalla musica più stupenda, perché è più stupenda la gente, e tu me la nascondi. Ecco perché rompo il fidanzamento. Potevi andare bene finché ti attenevi alle cose, ma quando passavi alle persone... Lucy si interruppe. Ci fu una pausa. Poi Cecil disse con intensa emozione. «È vero». «È vero nell'insieme», rettificò Lucy, colma di un vago senso di vergogna. «È vero, parola per parola. È una rivelazione. Ci sono tutto io, qui dentro. Comunque sono queste le mie ragioni per non diventare tua moglie». Cecil ripeté. «Uno di quegli individui che non possono conoscere intimamente nessuno. È vero. Sono caduto a pezzi fin dal primo giorno del nostro fidanzamento. Mi sono comportato da mascalzone con Bib e con tuo fratello. E tu sei una creatura ancora più rara di quanto non credessi». Lucy mosse un passo indietro. «Non ho intenzione di tormentarti. Sei infinitamente troppo buona con me. Non dimenticherò mai la tua chiaroveggenza e, cara, ho un unico rimprovero da farti. Potevi avvertirmi nei primi stadi, prima di capire che non mi avresti sposato, dandomi così l'opportunità di migliorare. Non ti ho mai conosciuta fino a stasera. Ti ho semplicemente sfruttata in funzione di un manichino dove appendere i miei stolti concetti su ciò che dovrebbe essere una donna, ma stasera sei una persona diversa, nuovi pensieri, addirittura una nuova voce». «Una nuova voce? Cosa vorresti dire?» domandò Lucy in preda a una collera irrefrenabile. «Sembra che una nuova persona parli per tramite tuo», precisò Cecil. Allora Lucy perse la bussola. «Se credi che sia innamorata di un altro, ti sbagli di grosso», gridò. «È ovvio che non lo credo, non è il tuo genere, Lucy. Oh sì che lo credi, è la tua solita idea, l'idea che ha ritardato l'evoluzione dell'Europa, insomma l'idea che le donne pensino continuamente agli uomini. Se una ragazza rompe il suo fidanzamento, tutti dicono, hai in mente qualcun altro, spera di pigliarsi qualcun altro. È ripugnante, brutale, Cecil, come se una ragazza non potesse riprendersi la parola data per amore della libertà». Cecil rispose con accento riverente. «Può darsi che l'abbia detto in passato. Non lo dirò mai più. Mi hai snebbiato la mente al riguardo». Lucy cominciò ad arrossire e finse da capo di osservare le finestre. «Qui non si tratta di qualcun altro, è chiaro», riprese Cecil, «né della cosiddetta incostanza muliebre, né di analoghe nauseabonde stupidaggini. Ti chiedo umilissimamente perdono se le mie parole si prestavano a una simile interpretazione. Volevo dire soltanto che c'è in te una forza di cui finora avevo sempre ignorato l'esistenza». «D'accordo, Cecil, basta così. Non scusarti con me. L'errore è stato tutto mio», rispose Lucy. «Si tratta viceversa di un contrasto di ideali, i tuoi e i miei, ideali puri e astratti, e i tuoi sono i più nobili. Io mi ero rinchiuso nelle vecchie teorie deteriori, mentre tu sei stata splendida dal principio alla fine. Debbo effettivamente ringraziarti per ciò che hai fatto», continuò Cecil con voce rotta dalla commozione. «Per avermi mostrato quello che sono in realtà. Solennemente io ti ringrazio per avermi mostrato un'autentica donna. Vuoi darmi la mano?» «Ma certo», disse Lucy, afferrandosi alle tende con la mano sinistra. «Buonanotte, Cecil. Addio. Senza rancore. Accetta le mie scuse. Ti ringrazio di cuore per la tua affettuosa comprensione». Giunto sul pianerottolo, Cecil sostò, forte nella propria rinuncia, e le lanciò uno sguardo di immemoranda bellezza. Malgrado tutta la sua cultura, era un asceta nell'intimo, e nulla nel suo amore gli donava come il momento del distacco. Lucy non avrebbe potuto sposarsi mai. Nel tumulto dell'anima questo imperativo rimaneva saldo. Cecil credeva in lei, e lei doveva arrivare a credere in se stessa un giorno. Doveva essere una di quelle donne che aveva elogiato con tanta eloquenza, che puntano sulla libertà e non sugli uomini. Doveva dimenticare che George la amava, che George era andato pensando per tramite suo e le aveva ottenuto quel riscatto onorevole, che George era scomparso in... che cosa? Nel buio. Lucy spense la lampada. Non conveniva riflettere, anzi, non conveniva neppure sentire. Desisté dal tentativo di comprendere se stessa e si inserì negli eserciti immensi degli onnubilati, che non seguono né il cervello né il cuore e marciano verso il loro destino sotto le insegne dei luoghi comuni. In questi eserciti abbondano le anime amabili e pie, ma hanno ceduto all'unico nemico che conti, il nemico interiore. Hanno peccato contro la passione e la verità, e vani saranno i loro sforzi di pervenire alla virtù. Man mano che passano gli anni, sono prese a bersaglio di critiche. La loro amabilità e la loro pietà mostrano delle crepe. La loro arguzia diventa cinismo e la loro abnegazione ipocrisia. Dovunque vadano, provano e creano malessere. Lucy si arruolò in questo esercito quando diede da intendere a George che non lo amava e diede da intendere a Cecil che non amava nessuno. La notte l'accolse come 30 anni prima aveva accolto la signorina Bartlett. Quel lunedì pomeriggio il signor Bibb veniva in bicicletta alla torre di un piccolo pettegolezzo. Aveva ricevuto notizie delle signorine Alan. Quelle ammirevoli gentildonne, non avendo potuto andare a Villa Sissi, avevano cambiato i loro piani. Sarebbero andate invece in Grecia. Ignaro degli eventi del giorno prima, il signor Bibb veniva semplicemente per bersi una tazza di tè, per vedere sua nipote, per appurare se la signorina Honeychurch era capace di scorgere qualcosa di bello nel desiderio di visitare Atene espresso da due vecchiette. Una carrozza attendeva davanti a Windy Corner, e nell'istante in cui il signor Bibb posava gli occhi sulla casa, partì di buona lena su per il viale e, arrivata alla strada maestra, si fermò bruscamente. Doveva dipendere dal cavallo, che contava sempre sui passeggeri perché affrontassero a piedi la salita, evitando così di stancarlo. Lo sportello si aprì ubbidientemente e ne uscirono due uomini nei quali il signor Bibb riconobbe Cecil e Freddy. Strana coppia era quella per una gita in carrozza, pensò lui, ma accanto alle gambe del cocchiere vide un baule. Cecil, che portava la bombetta, doveva essere di partenza, mentre Freddy, in berretto, lo accompagnava alla stazione. Camminavano a passo svelto, prendendo per le scorciatoie, e giunsero sulla cima mentre la carrozza percorreva ancora le curve della strada. I due giovani scambiarono una stretta di mano col reverendo, ma non dissero nulla. «Dunque, signor Weiss, lei fa un salto in città?» domandò il signor Bibb. Cecil rispose «sì», mentre Freddy cercava di scantonare senza dare nell'occhio. «Ero venuto per mostrarvi questa incomparabile lettera delle amiche della signorina Honeychurch». E il signor Bibb ne citò qualche rigo. «Non è straordinario? Non è romantico? A Costantinopoli esse ci andranno immancabilmente. Sono state prese a un laccio infallibile. Finiranno col fare il giro del mondo». Cecil ascoltò civilmente e affermò che la lettera avrebbe certo divertito e interessato Lucy. Il signor Bibb accese una sigaretta e continuò a discorrere. «Dicevo dunque se le nostre povere piccole vite britanniche devono avere uno sfondo? Ebbene, che sia italiano. È abbastanza grande, in fede mia. Io mi riservo la volta della Cappella Sistina, dove il contrasto è appena sufficiente al mio comprendonio. Ma non il Partenone, non il Fregio di Fidia a nessun costo». «Lei ha perfettamente ragione», disse Cecil. «La Grecia non si confà alla nostra modesta brigata», ed entrò in carrozza. Freddy lo seguì, salutando con un cenno del capo il signor Bibb, nella speranza che non fosse sul serio in vena di pigliare per il bavero i suoi simili. Ma non avevano fatto 10 metri che già saltava giù e tornava indietro di corsa per recuperare i fiammiferi di Weiss, rimasti al reverendo. Mentre prendeva la scatola, disse: «Sono proprio contento che abbia tirato in ballo solo i libri. Cecil ha avuto una grossa batosta. Lucy non vuole più saperne di sposarlo. Se lei avesse seguitato a parlare di Lucy invece di cambiare discorso, c'era pericolo che crollasse. Ma quando? Ieri sera tardi. Bisogna che scappi. Forse i suoi non avranno voglia di vedermi. No, vada, vada. Arrivederci». «Grazie al cielo», esclamò il signor Bibb rivolto a se stesso, e in segno di approvazione colpì il sellino della bicicletta. Era l'unica stupidaggine che la ragazza avesse mai commesso. Oh, che egregia risoluzione a levarselo di torno. E dopo averci pensato un po' su, affrontò a cuor leggero la discesa verso Windy Corner. La casa era tornata come era logico che fosse, tagliata fuori per sempre dal mondo pretenzioso di Cecil. Dal salotto sgorgavano gli echi squillanti di una sonata di Mozart nell'interpretazione di Lucy. Il signor Bibb titubò un momento, ma proseguì verso il giardino secondo le istruzioni ricevute e ci trovò una lugubre compagnia. Era una giornata burrascosa, il vento aveva investito e spezzato le dalie. La signora Honeychurch, che appariva di pessimo umore, le stava legando ai paletti di sostegno mentre la signorina Bartlett, in abiti disadatti, la intralciava con le sue offerte di assistenza. A breve distanza Minnie e l'aiuto giardiniere, un minuscolo oggetto di importazione, reggevano i due capi di un lungo pezzo di stuoia. «Oh, benvenuto, signor Bibb. Misericordia, che subbuglio generale. Guardi le mie giorgine scarlatte. Poi questo vento che butta all'aria le gonne e il terreno è così duro che non c'è verso di ficcarci dentro un paletto. E per di più la carrozza è dovuta andare via mentre io contavo su Powell, che diamo a ciascuno quanto gli spetta, sa legare le dalie come si deve». La signora Honeychurch era palesemente annientata. «Buongiorno a lei», disse la signorina Bartlett, lanciando al reverendo un'occhiata significativa, come per comunicargli che qualcosa di maggiore entità delle dalie era stato infranto dalle raffiche autunnali. «Svelto, Lenny, porgimi la stuoia», gridò la signora Honeychurch. L'aiuto giardiniere, che ignorava cos'era una stuoia, rimase abbarbicato al suolo dall'orrore. Minnie si avvicinò di soppiatto allo zio e bisbigliò che quel giorno tutti erano sgarbatissimi e che non era colpa sua se i legacci delle dalie si strappavano per il lungo invece che per il largo. «Su, Minnie, andiamo a fare una passeggiata», le disse il signor Bibb. «Hai infastidito i tuoi ospiti oltre il limite della sopportazione. Signora Honeychurch, sono capitato così, senza un motivo speciale. Se permette, conduco mia nipote a prendere il tè alla taverna dell'Alveare». «Oh, deve proprio andarsene». «Ma sì, vada pure. No, grazie, Charlotte, non so che farmene delle forbici quando ho ingombre tutte e due le mani. Sono matematicamente sicura che le mie dalie cactus saranno già partite prima che io sia arrivata da loro». Il signor Bibb, che era uno specialista nell'appianare le difficoltà, invitò la signorina Bartlett a partecipare alla modesta festicciola. «Sì, Charlotte, non ho bisogno di te, vacci senz'altro. Non c'è nulla che ti impedisca di andare, sia in casa che fuori». La signorina Bartlett sostenne che il dovere la chiamava nella aiuola delle dalie, ma dopo che ebbe esasperato tutti, salvo Minnie col proprio rifiuto, fece voltafaccia ed esasperò Minnie col proprio assenso. Mentre risalivano il giardino, cadde la pianta delle dalie cactus, e l'ultima visione del signor Bibb fu quella dell'aiuto giardiniere che la abbracciava come un amante, la testa bruna affondata in un rigoglio di gemme arancione. «È terribile questa strage di fiori», osservò. «È sempre terribile quando una promessa di mesi e mesi va distrutta in un momento», proclamò la signorina Bartlett. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.